si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare insieme in diretta fino alle 10 per dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi, poi per raccontare un po' di buone notizie che metteremo come sempre al vaglio delle vostre opinioni al numero verde che apriremo dopo il giornale radio delle 8. Ve lo dico subito, parleremo dei primi posti di lavoro che si sa ci saranno per Expo, perché ieri è stato presentato il primo bando per 5.000 posti di lavoro per Expo. Finalmente era l'ora, insomma, se c'era molta attesa per questo grande evento e per i posti di lavoro, per la mano che può dare allo sviluppo, alla crescita, all'occupazione in Italia. Fino ad ora si era parlato solo dei volontari di Expo e finalmente adesso si parla anche del lavoro. Partiremo da qua, da questa buona notizia, cercheremo di capire però che non vada a finire, per esempio, come è successo questa settimana, una notizia che ci ha particolarmente colpito. Un'azienda di reclutamento cercava alcuni dirigenti, alcuni giovani con buoni stipendi, hanno fatto le selezioni, pochissimi si sono presentati e non hanno trovato nessuno, cioè ci sono dei posti di lavoro ancora in Italia per i quali non si presenta nessuno, e questo è un fatto davvero incredibile. Vedremo se, insomma, se si può fare, cioè se veramente i posti di lavoro che ci sono, per esempio per Expo, insomma, sono appetibili per i nostri giovani, se andrà a buon fine tutto questo. Noi naturalmente ci auguriamo di sì, rinnovando un appello ai giovani a non stare con le mani in mano, perché insomma un'esperienza di lavoro iniziale, anche interlocutoria, è sempre positiva, perché insomma ti porti a casa uno stipendio, fai esperienza, intessi relazioni utili per il futuro, meglio che stare a casa ad aspettare il lavoro della vita. Parleremo di questo dopo il giornale radio delle 8, ma adesso, anzi intanto vi do subito i nostri contatti se volete interagire con noi fin da subito in tempo reale. Ci trovate su Facebook, la pagina è Si può fare trattino radio 24, su Twitter l'account è @ Si può fare 24, il mio account è @ Ale Maurizi. Adesso, come detto, andiamo ad iniziare dai giornali di oggi. E allora, naturalmente si parla della legge di stabilità con il maxi emendamento che ha tenuto in sospeso ieri il Parlamento per tutta la giornata. Il voto definitivo c'è stato solo nella notte, quindi i giornali non riportano questa notizia, voto che è stato favorevole. Sui giornali però ci sono, diciamo, i contenuti della legge di stabilità, ma anche un po' le polemiche su questo ritardo che ha messo il governo di fronte ad una situazione complessa. Vedremo come la spiegano i giornali. Poi, insomma, altre cose, ancora elementi sull'inchiesta mafia capitale e altro ancora. Cominciamo dal Corriere della Sera. Manovra, il caso delle mance, appunto. Ritardi e polemiche sulla legge di stabilità. Renzi: abbiamo dato una sforbiciata per togliere le regalie. Andiamo a vedere di che cosa si tratta all'interno. La ricostruzione che fa il Corriere della Sera è questa: emendamenti a valanga con troppe mance e Renzi prese le forbici. La situazione è fotografata alle 18 di ieri sera con Enrico Morando, vice ministro dell'economia, che è sconsolato al presidente Linda Lanzillotti, presidente del Senato in quel momento, dice: non sono in grado di prendere un impegno preciso sui tempi del maxi emendamento perché non ho ancora ricevuto il testo. E non è stata una bella figura per il governo. Cosa è successo? È successo che già si sapeva, il governo si era preso, cioè il Parlamento si era preso molto tempo alla Camera, aveva sostanzialmente bruciato i tempi di approvazione del Senato. Al Senato, in Commissione Bilancio, sono state approvate altri erano in corso approvazione di altri emendamenti. Il ritardo accumulato è diventato insostenibile. Il governo ha sospeso la discussione in commissione al Senato. Senza approvazione ha fatto un maxi emendamento da portare in aula. Il voto poi, diciamo, è arrivato stanotte. Ma cosa veramente è successo? Secondo il Corriere è successo questo: Renzi, di ritorno da Bruxelles, mentre assicurava non voglio sforare il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL, evidentemente perché venendo da Bruxelles fresco, diciamo, degli impegni presi a diciamo, violare il patto di stabilità per quanto riguarda gli investimenti del piano Juncker per la crescita, ma non per quanto riguarda gli impegni già presi dal governo sulla legge di stabilità, dice voglio rispettare le regole, e allora si è messa a spulciare il testo della legge di stabilità per espugnare le varie leggi Marchetta, che come sappiamo ogni anno a fine anno in queste leggi ex finanziarie, adesso leggi di stabilità, ci sono, si trovano finanziamenti per le bande regionali dei paesi da dove vengono i parlamentari, finanziamenti per opere infrastrutturali mai fatte, eccetera eccetera. Molte di queste regalie erano state segnalate dal Movimento 5 Stelle al Presidente della Commissione Bilancio Boccia, con la promessa che se non fossero state cancellate sarebbe scattato l'ostruzionismo e la discussione sarebbe andata a Natale. Quindi un po' per forza, un po' per convinzione, Renzi questo avrebbe fatto. Vediamo anche poi sugli altri giornali come viene letta questa questione. Per esempio, possiamo andare subito sul Sole 24 Ore, che a proposito della legge di stabilità titola così: IRPEF, Cuneo, TFR, le novità in arrivo, confermato il bonus di 80 euro, slitta la local tax all'anno prossimo, province, nessuna riduzione dello stipendio fino al 2017. Con il consueto strumento di rating 24, Sole 24 Ore valuta alcuni dei provvedimenti che sono la legge di stabilità. Li trovate tutti, in prima pagina ce ne sono alcuni, che sono questi, per esempio, sul cuneo fiscale, cioè la totale deducibilità dall'IRAP del costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato, per chi non ha dipendenti ci sarà un credito d'imposta pari al 10%, efficacia alta, realizzabilità alta, quindi un giudizio positivo del Sole 24 Ore su questo. Giudizio invece negativo sull'IMU sui macchinari, lo sappiamo, è una questione che sta a cuore agli imprenditori, solo piccoli ritocchi per la tassa sui macchinari, quindi una efficacia bassa e una realizzabilità bassa. Giudizio positivo invece sul provvedimento che riguarda il Made in Italy, finanziato il piano straordinario per il Made in Italy per il 2015, efficacia alta, realizzabilità alta, si torna a una valutazione bassa per la misura che è quella del TFR in busta paga, facoltà di scelta su questo dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. La tassazione sul TFR sarà quella ordinaria, quindi peggiore di quanto è invece sul TFR trattenuto in busta paga e poi concesso alla fine del rapporto di lavoro. Efficacia media per il TFR in busta paga secondo il Sole 24 Ore, realizzabilità che è ancora peggiore, cioè bassa. Ma torniamo invece per le altre notizie sul Corriere, che ha il secondo titolo su questo: Obama dice alla Sony sbagliato cedere a un dittatore. La questione è questa: non ci può essere un dittatore che impone la censura negli Stati Uniti, che ci impone di autocensurarci, dice Barack Obama alla Sony, che ha sbagliato a ritirare il film satirico The Interview dopo gli attacchi hacker che l'FBI ha attribuito al regime nordcoreano di Kim Jong-un. Secondo il presidente, la multinazionale avrebbe dovuto interpellarlo quando ha ricevuto queste minacce. Ora è toccata un film satirico, dice Obama, ma cosa succederebbe se cominciassero a sabotare le news? Cioè, dovremmo poi chiudere anche i canali televisivi di news? E questa è la domanda sullo sfondo di Obama, che sulla politica estera si è un po' rialzato la testa in questi ultimi giorni, visto che si avvicina a fine mandato, forse vuole lasciare un segno. Ci sarà una reazione americana a questo hackeraggio della Corea? Ci sarà la nostra azione, ha detto Obama, nei tempi e nei modi che decideremo. Andando su Repubblica, il titolo è Caos nel governo sulla legge di stabilità, Renzi mette la fiducia. E poi c'è un altro titolo invece che riguarda Pescara, tutti innocenti per la valle avvelenata. Che cosa è successo? Nessun colpevole per le discariche dei veleni della Montedison scoperte nel 2007 a Bussi sul Tirino nel Pescarese, anche se i dati dell'Istituto Superiore di Sanità dicono il contrario. Per la Corte d'Assise di Chieti l'avvelenamento di 700.000 residenti non c'è mai stato. Il disastro ambientale invece sì, ma per i giudici si tratta di un reato di natura non dolosa. Così è scattata la prescrizione, una cosa che ha fatto naturalmente infuriare tutte le persone che hanno avuto delle vittime, dei parenti che si sono ammalati. Di questo si occupa anche il Manifesto, che titola in prima pagina così: licenza di disastro, giornata nerissima per la salute e l'ambiente, a Pescara assolti i vertici della Montedison per la mega discarica di rifiuti tossici di Bussi, erano accusati di disastro ambientale e omicidio colposo plurimo. Stessa sorte, e questa è un'altra notizia, per le vittime della fabbrica tessile Marlene di Praia a Mare. Il fatto non sussiste. Vediamo, leggiamo dopo il traffico, facciamo la pausa per il traffico e torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, come dicevamo, dalla prima pagina del Manifesto, licenza di disastro, la doppia notizia della soluzione dei vertici Montedison per la discarica più grande ed è stata definita d'Europa a Bussi, e discarica abusiva naturalmente, e anche per quanto riguarda il caso della Marlene di Cosenza, di cui si è meno parlato. Allora leggiamo di cosa si tratta: 107 morti, il fatto però non sussiste, nessun colpevole della lenta carneficina che sarebbe avvenuta nella fabbrica tessile Marlane di Praia in provincia di Cosenza. Non esiste un nesso di causa ed effetto tra le sostanze tossiche inalate e le decine di tumori contratti dai 107 operai che all'interno della fabbrica hanno lavorato per anni. Non ci sono responsabilità per quanti avrebbero dovuto vigilare e garantire minime condizioni di sicurezza. Stabilillo, dopo un lungo e tormentato dibattimento protrattosi fino a ieri sera, è stato il tribunale di Paola, dove ieri è stato assolto, sono stati assolti tutti gli imputati, tra cui il dirigente della fabbrica nonché già sindaco di Praia a Mare, Carlo Lomonaco, assolto anche il padrone dell'azienda, il conte Pietro Marzotto. Lacrime di rabbia, urla di indignazione hanno attraversato le strade di Paola subito dopo la lettura di questa sentenza. Il commento di Vittorio Cogliati Dezza: è ora di inserire il delitto ambientale nel codice penale. Questa dunque è la doppia notizia per quanto riguarda appunto questi delitti ambientali e le sentenze di assoluzione che ci sono state ieri, prescrizione e assoluzione. Libero si occupa di un'altra notizia, invece, proprio per cambiare completamente. Importiamo clandestini perfino dalla Grecia. Succede che, questo sulla prima pagina del quotidiano Libero, succede che un barcone con a bordo circa 200 migranti è stato localizzato in mattinata dal centro di ricerca e soccorso del Ministero della Marina Mercantile greca, 117 miglia a largo di Pilos, ma una volta raggiunto il barcone, nonostante la costa del Peloponneso fosse la più vicina, i soccorritori non si sono sentiti rivolgere la richiesta di essere sbarcati in Grecia. I migranti hanno infatti cortesemente declinato l'invito a salire sulle navi colà dirette, dicendo di voler andare in Italia. E questa è la notizia su cui centra l'attenzione Libero. Dunque, per quanto riguarda il tema invece delle province nel caos, con i dipendenti che hanno protestato in più città per il taglio appunto delle province e per il fatto che il 50% dei dipendenti della provincia sono a rischio. Succede questo: c'è un'intervista al ministro su Repubblica, al ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, che dice: tranquilli, nessuno perderà il posto di lavoro, questo non accadrà, è un mio preciso impegno. Il ministro Lanzetta garantisce che nessun impiegato delle province perderà il posto di lavoro e che i fondi si troveranno. Abbiamo liberato risorse e stabilito un percorso con la legge di stabilità. Troveremo una soluzione. Certo, non si può pensare di tagliare le province e lasciare a casa la gente da un giorno all'altro. Certamente non verranno sostituiti quelli che andranno in pensione, non ci saranno nuove assunzioni, però quelli che ci stanno in mezzo, qualche soluzione giustamente va trovata. E la soluzione, secondo il ministro Lanzetta, è che in 3.500 dovrebbero andare verso la pensione. Ci sono 3.500 persone che hanno tra i 60 e i 65 anni, dipendenti delle province, questi nei prossimi anni dovrebbero andare in pensione. Per gli altri si troverà una collocazione, assicura il ministro Lanzetta, un ministro per ora abbastanza silente all'interno del governo, e queste sono le promesse per quanto riguarda il tema delle province. Sempre dalla prima pagina di Repubblica troviamo una notizia, una proposta con un'annessa polemica: l'ultima follia per aiutare i musei, le opere d'arte negli alberghi. Le opere dei depositi che stanno nei depositi dei musei italiani rimangono oscuro oggetto, scrive Repubblica, dei desideri di coloro che in quei depositi non hanno mai messo piede. Ora il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, tra l'altro anche senatore di Forza Italia, rilancia l'idea. E l'idea qual è? È questa: concedere quelle opere d'arte che stanno nei depositi dei musei italiani in comodato d'uso ai 34.000 hotel italiani perché ci arredino le hall. Plaude Filippo D'Averio, critico d'arte notissimo: almeno le opere d'arte abbandonate negli scantinati serviranno a qualcosa. Ma conclude Tommaso Montanari, sollevando questa polemica: in tutto il mondo l'impresa privata concorre a mantenere il patrimonio culturale pubblico con il mecenatismo, da noi invece si vorrebbe che fosse lo Stato a fare il mecenate per le imprese private, concedendo in comodato gratuito alle grandi catene alberghiere le opere d'arte che appartengono a tutti, anche agli indigenti. E dice Montanari: dal mecenatismo allo sfruttamento privato di un bene pubblico c'è davvero un bel tratto di strada. Questa insomma è una proposta, una gustosa polemica, se vogliamo. Il Messaggero con le notizie su Mafia Capitale in prima pagina: così volevano controllare anche le carceri. Poi sequestrati 100 milioni a Guarnera. Leggiamo: pressioni sul Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per far trasferire l'Ele Macchi di Cellere, il mandante del delitto Fanella, da Rebibbia ad un altro carcere. L'inchiesta su Mafia Capitale non si ferma. Intanto, mentre l'impianto dell'accusa regge, il tribunale del riesame ha fatto scarcerare Riccardo Mancini, ex amministratore delegato di Euro SPA, che però, secondo il Fatto Quotidiano, si metterebbe a collaborare. Infatti scrive così il Fatto Quotidiano: sempre più Mafia Capitale, le pressioni su Abrignani e Polverini, deputati di Forza Italia, per trasferire i camerati da una cella all'altra e da un carcere all'altro, come leggevamo anche prima. L'ex re dell'Euro Mancini torna a casa e forse collabora, e questo sarebbe un punto di svolta. La cloaca politico-criminale romana è un pozzo senza fondo. Una buona notizia c'è per quanto riguarda l'inchiesta Mafia Capitale, e con questa ci lasciamo a termine di questa rassegna stampa. Vai! And now the good news! Ed è questa, una buona notizia, una piccola buona notizia. Mafia Capitale, Confindustria si costituisce parte civile. È importante perché insomma le imprese prendono posizione, le imprese associate di Confindustria prendono posizione naturalmente contro tutto quello che è successo, la corruzione di alcune imprese all'interno di questa cricca di affari che si era sviluppata nella capitale. Però è importante che ci sia questo passo: costituirsi parte civile vuol dire prendere una posizione netta. La decisione è arrivata pochi giorni fa e lo ha annunciato il delegato di Confindustria per la legalità Antonello Montante, già autore e promotore di molte battaglie per la legalità all'interno e all'esterno di Confindustria. La notizia è arrivata appunto 2 giorni fa, e segue l'altra notizia, cioè il bollino blu di legalità che insieme a Cantone, al presidente dell'autorità anticorruzione, e proprio a Confindustria si è deciso di portare avanti un bollino di legalità per le aziende, quindi che sono in regola con tutto quello che riguarda la fedina penale delle aziende, anche in termini di trasparenza, aziende che potrebbero essere avvantaggiate poi nelle gare d'appalto pubbliche, giustamente passando davanti ad aziende che invece hanno avuto problemi con la giustizia. Con questa buona notizia ci fermiamo qua, c'è il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo, apriremo anche il numero verde ai vostri interventi, 800 24 00 24, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Eccoci qua di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta. Cominciate da subito a prenotare il vostro intervento. Vi aspettiamo per commentare quello che sentite, per commentare le buone notizie. E cominciamo subito con una notizia incredibile. Più si può fare di così. Qui non è che ci sia molto da commentare, a dir la verità. Sentite qua, è una notizia di questi giorni, di questa settimana. Polacco di 104 anni, non so se l'avete già letta, corre i 60 metri ed è record europeo. È pazzesco. Stanislav Kowalski si chiama quest'uomo, ci sono le immagini. A 104 anni ha corso i 60 metri in 19 secondi e 72, stabilendo il nuovo record europeo. È riuscito a correre anche i 100 metri in 32 secondi. 104 anni, più si può fare di così? Non si può, ed è record europeo. Però questa notizia mi ha incuriosito anche per un altro motivo. Se questo è il record europeo, vuol dire che c'è qualcuno che ha un record mondiale ancora migliore, cioè ha più anni del signor Kowalski, o ha corso i 60 metri in meno di 19 secondi a più di 100 anni. Cioè, c'è gente veramente pazzesca. Oggi vi vogliamo, cari ascoltatori, per commentare le buone notizie, naturalmente, 800 24 00 24, ma anche per giocare con noi. E come sempre in palio mettiamo i biglietti per la mostra di Chagall a Milano, nonché il prestigioso catalogo. A chi ci dà un suggerimento, insomma, per alleggerire un po' la tensione di questo Natale, perché come sempre quando bisogna fare i regali ci si stressa moltissimo. Allora, ascoltatori, i suggerimenti per i regali di Natale più originali, più economici, più intelligenti, a base di risparmio, a base di riciclo, non so, la pallina per l'albero di Natale fatta con la stoffa riciclata, oppure tutto quello che volete voi, insomma, i libri, sì, ma quali? Che libri regalate quest'anno? Insomma, ecco, il suggerimento più bello, anche oggi, si porta a casa il nostro premio. 800 24 00 24, adesso, come abbiamo annunciato, vogliamo parlarvi di lavoro, perché c'è una buona notizia per quanto riguarda il lavoro. Ebbene sì, sono i primi posti di lavoro per chi si candiderà per quanto riguarda Expo, e da qui noi oggi partiamo. Vai! Quello che sentite, tra l'altro, è una canzone che parla di Expo, e merita qualche notizia, qualche approfondimento, perché è il finto inno di Expo, nel senso che appena è stato, diciamo, autoprodotto da Sebax, si è diffuso in rete, come spesso accade, in modo virale. Tutti pensavano che fosse l'inno di Expo, invece non c'entra assolutamente nulla. Cioè, c'entra, ma non è l'inno di Expo. È una canzone che parla di Expo e che furbescamente si è inserita in questa vicenda, cercando di avere un po' di pubblicità, cosa che anche noi stamattina gli abbiamo garantito. È una canzone abbastanza trash, non so se volutamente, credo di sì, oppure involontariamente, non importa. Ma la notizia importante è questa: ci sono i primi posti di lavoro al via il processo di selezione di Manpower Group per Expo Milano 2015. 5.000 posti di lavoro, cuochi, sommelier, manager, ma anche vice direttori di padiglioni. Ne parliamo con Stefano Scabbio, amministratore delegato di Manpower Group. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, sono 5.000 posizioni, sì? Reali opportunità. È una devo dire che è una bella opportunità, no? Per coloro, e che sono tanti, sappiamo che in questo momento cercano un'opportunità di lavoro in una situazione del paese così difficile come sentiamo spesso. Contratti regolari, quindi contratti di somministrazione e a tempo determinato, e stipendi in media con il mercato, quindi sostanzialmente si passa da stipendi che partono all'incirca dai 1.100 euro per poi crescere a seconda ovviamente del ruolo e dell'esperienza. Ecco, io ho fatto alcuni esempi, così insomma sui giornali di oggi, insomma le agenzie di ieri hanno ribattuto cuochi, sommelier, manager, ma anche elettricisti, insomma camerieri, c'è di tutto, anche vice direttori di padiglioni. Sì. Quindi dal basso all'alto. Sì, sono ovviamente tutte queste figure, sono figure di cui abbiamo richiesto necessità da parte dei paesi che ospiteremo, e che stanno approvvigionandosi appunto di risorse per far vivere l'esperienza del proprio padiglione. Quindi sono figure diversificate, dal responsabile diciamo del padiglione a persone oste, steward, come dicevamo, camerieri, cuochi, interpreti, no? Figure che lavoreranno a stretto contatto con i visitatori per far vivere questa esperienza. Ecco, che durata avranno questi contratti? Perché insomma l'Expo è un'esposizione temporanea, poi finisce. Ma i contratti hanno durata di 6 mesi, la durata dell'Expo, in alcuni casi anche fino alla fine dell'anno, quindi verranno prolungati. Tendenzialmente le selezioni sono in corso adesso, siamo sotto Natale, ma poi il flusso importante ovviamente avverrà nei primi 2 mesi dell'anno, e poi si partirà immediatamente con la formazione, perché la formazione rappresenta un passo importante per far vivere questa esperienza specifica di ogni padiglione, che ogni paese vuole trasmettere alla propria squadra di persone. E che cosa deve fare chi è interessato, diciamo, a candidarsi per questi posti di lavoro? Un disoccupato, insomma una persona che sta cercando lavoro, un ragazzo che dice: che bello Expo, vado a candidarmi, cosa deve fare? È semplice, deve andare sul nostro sito che è www.manpowergroup4expo.it, 4 con il 4, e selezionare una dei ruoli per i quali si sente adeguato, e da lì inizia il processo di candidatura. Abbiamo già ricevuto 95.000 candidature in poco più di 3 mesi. Senta, in questi prima che voi lanciaste questo primo, diciamo, come vogliamo chiamarlo, bando di 5.000 posizioni, si era parlato soprattutto dei volontari per Expo. Infatti cominciavamo a temere che intorno a Expo girasse solo, diciamo, la possibilità di fare del volontariato. Invece per fortuna è arrivata la buona notizia. Lei trova giusto, corretto, coerente che ci sia anche questa mobilitazione di volontari per Expo, che ha suscitato qualche polemica, perché giustamente invece qualcuno ha trovato qualcosa da ridire sul fatto che si lavorasse comunque gratis in qualche modo? Ma è una modalità abbastanza consueta per questo tipo di esposizioni, quindi c'è una parte, una componente di figure che vengono assunte, e anche una componente di volontari che vogliono partecipare a questa cosa, quindi non la vedo strana, diciamo che è una consuetudine insomma per quanto riguarda gli Expo di tutto il mondo, non è una novità che abbiamo introdotto quest'anno in Italia, capisce? Senta, questa settimana c'è stato anche un caso limite, di un'azienda di reclutamento, di posti di lavoro, di persone da occupare, che insomma, ha fatto notizia perché cercavano 4 giovani da occupare di medio livello, con buono stipendio, e il bando praticamente è andato a vuoto. Un caso che ha riguardato la Execo, non so se ha letto questa notizia. Le chiedo, non teme che l'effetto scoraggiamento da parte dei giovani, l'effetto, diciamo, non mi va di fare il cameriere eccetera eccetera, possa ricadere anche su di voi, cioè che questo bando possa andare in qualche posizione in particolare a vuoto, cioè che non si raggiunga l'obiettivo? Ma guardi, onestamente non credo, come le ho detto poco fa, abbiamo ricevuto in poco più di 3 mesi 95.000 candidature, quindi un numero veramente importante, sintomo di questo momento di crisi. Il tema oggi, e questo è un messaggio per tutti i giovani, non è soltanto l'aspetto della competenza tecnica, del ruolo specifico, ma sono importanti quelle metacompetenze. In questo caso specifico stiamo parlando della conoscenza delle lingue, almeno l'inglese, lo spagnolo, il tedesco sono lingue che devono essere conosciute, la capacità di comunicare, la capacità di lavorare in gruppo, la resilienza, perché comunque è un periodo in cui si starà a contatto molte ore della giornata con molte persone, quindi queste sono caratteristiche che vengono valutate in modo importante. E va bene, staremo a vedere, in bocca al lupo. Intanto grazie per essere stato così, diciamo, l'attore di questa che è senza dubbio una attesa, ma ottima notizia dei primi posti di lavoro. Tra l'altro le chiedo anche questo in chiusura, ci saranno altri bandi? Speriamo di sì. Expo sta valutando necessità di altre figure, soprattutto che dovrebbero insistere sul media center. E sì, quindi saranno figure tipiche della comunicazione e anche giornalisti. Questo potrebbe essere una buonissima opportunità per tanti giornalisti che in questo momento magari sono seduti in panchina. Grazie Stefano Scabbia, amministratore delegato di Manpower Group. Buon sabato, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata. 800 24 00 24. Dunque la notizia a cui siamo partiti è questa: ci sono i primi 5.000 posti di lavoro per quanto riguarda Expo, c'è un bando, vedremo se non andrà a finire come la storia di cui abbiamo anticipato, di cui andremo a parlare tra poco, la Execo che cercava giovani per posizioni di medio livello con buono stipendio e non è riuscita a trovarli. Effetto scoraggiamento, punto di domanda. Vediamo. 800 24 00 24. Torniamo tra poco. Parla con il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qua, ripartiamo dalle 8.35, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti e buon Natale volevo dire. Che siamo tutti più buoni. Esatto, dico siamo buon Natale perché siamo tutti più buoni e ho bisogno che Alessio non si arrabbi, volevo chiedere a tutti veramente scusa per il ritardo. Ho fatto una stupidata, sono sotto trasloco e lunedì trasloco finalmente. Non trovavi più la sveglia, l'avevi messa in un cassetto. Tu scherzi. Nella scatola. No, mi sono svegliato in ritardo ma non trovavo le chiavi del motorino e sono impazzito in cercare queste chiavi finché le ho trovate in una scatola dove c'era sopra scritto da non perdere, parola d'onore. Giustamente. E ho capito, ma però non si può iniziare a scatolare, diciamo, il sabato, il venerdì notte se uno il sabato mattina lavora. No, ecco. Poi da non perdere dov'era? Sotto tutte le altre scatole. Ovviamente, già persa, sotto montagne di libri, scatole. Chiedo veramente scusa a tutti. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Carlo, ti aggiorno. Certo. Chiediamo agli ascoltatori, ma tu lo sai, quanto perché... io sia stronzo. No. Ho sbagliato parola. No, così chiediamo agli ascoltatori, cosa che tu sai perché avresti dovuto essere qua quando l'ho lanciato il gioco di certo. Oggi sabato, per cui mettiamo in palio biglietti e catalogo della mostra di Chagall, di aiutarci a dare mi sto impappinando, di aiutarci coi regali di Natale. Cosa perché, regalare? Cosa regalare? Un suggerimento, un'idea originale, qualcosa di economico per risparmiare, un'idea di riciclo per esempio. Sono che venuto è in radio apposta perché non ho fatto ancora nessun regalo prima di lunedì. Quindi... Noi vogliamo che ci diate dei suggerimenti intelligenti, il suggerimento più bello vince e gli altri partecipano e giochiamo insieme così. Mi sembra un gioco perfetto e ne sono veramente molto curioso, però do un consiglio a tutti, prima Bravo. Di Natale fare un trasloco è un'ottima idea perché si trovano delle cose pazzesche che uno dice ma c'avevo questo anche qua, sta roba qua. C'avevo anche questa roba qua, ma questo è perfetto per mio fratello, glielo tipo regalo assolutamente. Di, che ne so, da regalare a qualche zio. Per esempio, io ho trovato 96 accendini al momento. 96 accendini. Sì, perché c'è una scatola con su scritto accendini, cioè, da non perdere anche quelli. O ti metti a venderli, e potrebbe essere una strada. Sono usati ovviamente. A metà prezzo, oppure li regali. Oppure a smetti Natale. Di fumare e li butti tutti via. Mi sa che via. Ti tocca un accendino quest'anno, Alessio, per Natale. Ho come questa sensazione. Sai che mi viene subito un dubbio, mi assale, ma dall'anno prossimo, cioè ormai tra poco dovremo sicuramente chiedere una mano a Ercolini, a Rossano, il nostro uomo ambientale dell'anno. L'accendino, dove si dove ricicla? Si ricicla? Cos'è? Plastica? È plastica con gas, con che gas. Sono dei. Oppure li devi scaricare fino in fondo. No, però c'è anche un pezzettino di ferro. No, ma poi mi hanno spiegato che la plastica dura non va nella plastica. Sempre in questo mio fantastico trasloco che mi sta segnando, come puoi vedere anche dalla mia faccia, ho scoperto che la plastica, un certo tipo di plastica molto dura, non va dentro nella plastica, quella dove noi mettiamo, non so, la confezione delle uova, piuttosto che la plastichina che è messa sopra i giornali. Perché sto passando delle giornate anche a togliere la plastichina dai giornali, perché i giornali vanno nella carta ma la plastichina va nella plastichina. Giusto, è un po' un lavoraccio, ma va fatto. Adesso torniamo a parlare di lavoro, perché dopo aver presentato la notizia positiva dei 5.000 posti di lavoro per Expo, per cui ci si può già candidare fin da adesso con Manpower, abbiamo sentito poco fa l'amministratore delegato. Andiamo a parlare di un caso limite che speriamo non si ripeta anche questa volta. Un'azienda di reclutamento che cerca posti di lavoro, che offre posti di lavoro, cerca persone da occupare e non le trova. Se la mattina mi sveglio senza quell'autostima che dà la forza per proseguire questa vita che sembra che tu più fai bene più fai male, il mal di testa è una violenza, odio il lavoro, che penitenza, vado con ansia, non ho pazienza, palla a piede come fossi un criminale, chiamo il lavoro, sto in malattia, rischio davvero la psicopatia, bevo due birre, gioco alla play, ho tutto quello che vorrei, non ho voglia di lavorare, perdere il mio tempo e vedere uomini gravata, tasche piene, ipocrisia, soldi solo soldi, si perde in fantasia, non ho voglia di lavorare, zero stress e voglia di bere, l'ultimo bicchiere mano che non me ne andrò, piuttosto che sudare, me ne vado a tale show. Buongiorno Diego Malerba, numero uno di Execo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Beh, insomma, siamo partiti così leggeri con questa canzoncina su non ho voglia di lavorare. Io non lo so se è questo il tema, però la notizia sicuramente della settimana, per quanto mi riguarda, è quella che vi ha riguardato. Ci racconti lei, l'ho già anticipato un paio di volte, che cosa è successo? Stavate cercando almeno quattro persone da impiegare. Noi stavamo avendo quattro persone su quattro regioni specifiche: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise accorpate insieme, Liguria e Basilicata. Mm-hmm. Parliamo di figure commerciali assunte con apprendistato. E diciamo, uno si aspetta, a premessa, nel nostro mestiere nulla è certo, perché parliamo di persone, ci si aspettava migliaia, centinaia di CV, ne sono arrivate 200 rotti, che sono pochissimi, perché ripeto, parliamo di quattro posizioni. In realtà poi in due regioni, in particolare Liguria e Basilicata, parliamo di 20-25 Liguria e una dozzina in Basilicata. Questa è un po' la cosa. In Basilicata tecnicamente non abbiamo chiuso la ricerca, perché con 12 persone poi ci pagano per selezionare, non c'era materiale. C'era troppo poco da selezionare, insomma. Sì, no, ma magari se si è fortunati in quei 12 capita quello giusto, in questo caso non è successo. Quindi... Che tipo di posti erano, se si può dire? Sì, certo, non si può dire il nome dell'azienda perché mi ha chiesto riservatezza. È un'azienda che si occupa di vernici molto grande. L'idea è di andare a vendere sui punti vendita con capacità più elevate, motivo per cui si è cercato laureati per qualificare meglio il tipo di offerta e soprattutto anche fare del marketing sul luogo, cioè capire le esigenze dei clienti e riportarli in azienda. Quindi è una posizione piuttosto importante in prospettiva. Diciamo nell'ambito commerciale, vendita e marketing? Commerciale e vendita, sì. Tant'è che il vero problema, per anticipare un po', che noi sappiamo che fa il mio mestiere, che quando si parla di attività commerciale non è che la gente, come dire, si affolli, spesso capita. Cioè? Nel senso che l'attività di vendita è uno dei problemi, penso, perché evidentemente questa cosa non è la prima volta che ci capita, no? Ci capitano anche casi analoghi. L'attività di vendita in Italia probabilmente non è mai stata valutata come un'attività, come dire, lecita, non lecita. Viene vissuta negativamente, o negativamente, forse anche come una questione troppo performante, perché magari si è messi di fronte anche ai propri insuccessi. Insomma, i venditori sono importanti, no? Nelle aziende, sostanzialmente le fanno andare avanti. Sì, tanto più che in questo mercato, vuol dire, disgraziatissimo, dove oggi viviamo, è tutto saturo, è tutto pieno, la differenza per farla commerciale. L'attività commerciale però richiede, come diceva lei, un qualcosa in più in questo momento. E forse che... non dica. Sì, no, che spiegazione vi siete dati voi di questo, diciamo, di questa possibilità che è andata a vuoto? Insomma, si fa un gran parlare, ma non è che non ci sia la crisi. La crisi c'è un'altissima disoccupazione, soprattutto tra i giovani, di fronte a una situazione del genere, cioè a un bando per 4 posti di lavoro che sostanzialmente non cade nel vuoto, c'è da rimanere strabiliati. Per correttezza, 3 li abbiamo assunti, sì. Quindi noi non abbiamo coperto. Diciamo, 1 su 4, diciamo. Sì. Ripeto, il vero problema è la numerica, se vogliamo fare un'analisi un pochino seria, che esula poi da questo contesto, che rispetto al contesto economico, io temevo di dover fare screening, come si dice, di migliaia di CV, o almeno di qualche centinaia, non di così pochi. E in alcune regioni, ripeto, quindi è proprio un problema al di là della selezione, che comunque si può considerare chiusa. E qui i temi sono diversi. Uno, appunto, l'attività commerciale, che viene vissuta come qualcosa di dequalificante, probabilmente anche alcune altre offerte di lavoro. Qui si parlava di assunzione, macchina, tutto pagato, quindi alla fine 1200 netti più macchina, provvigioni, non è assolutamente male, no? Parliamo di una cifra analoga. Anche perché comunque si trattava di giovani, no? Cioè di persone... Il contratto di apprendistato, per cui c'era anche una logica, sì, under 30, e questo chiaramente ha fatto arrabbiare gli over 30, che devo dire in genere rispondono in maniera molto più di volume su queste ricerche, quindi poi sì. C'è un problema forse degli under 30, per alcuni aspetti. Noi questa domanda ce la siamo fatta, noi facciamo anche formazione, quindi io ragiono anche con professori universitari, però intanto il problema è che dare risposte secche è da pazzi, no? Perché sono, come dire, ragionamenti dove non c'è niente di sicuro, è tutto un po' spurio, no? Quindi abbiamo tentato di ragionare. Una certezza matematica è che il lavoro di vendita non piace, questo lo sappiamo. Tra l'altro io l'ho fatto da piccolo mantenendomi gli studi, quindi ho evidentemente un metro di giudizio che non è poi... Ma logico. Come mai non piace, secondo lei, il lavoro commerciale? Perché è vero, cioè, adesso che lo spiega così, è vero che non è, credo che nelle classifiche dei lavori non sia fra i primi 100, effettivamente. Mi chiedevo come mai, secondo lei, il commerciale è così visto male. No, tanto che, esatto, che nelle aziende poi spesso fanno carriera i commerciali, certo. È una cosa abbastanza buffa. Ma perché secondo me in Italia non c'è poi, guardi, le parlo da autore di Camera Caffè, dove il commerciale è Paolo Bitta, quindi il mito di tutta l'azienda, quindi è per questo che mi incuriosisce. Secondo me in Italia non c'è la cultura dell'andare a vendere. Io ho letto poi dei commenti sui vari blog, gente che diceva questi qui si presentano sudati, tentano di fregarti. Questa è un po' l'immagine folle, perché ripeto, oggi in realtà l'attività di vendita è una cosa raffinatissima in un mercato saturo, perché devo essere bravo a vendere e avere dei grandi contenuti, se no c'è quello dopo che mi sorpassa. Certo, no, ma perché mi chiedevo se ci fosse, mi immaginavo che ci fosse un tipo di reazione, ovvero sì, ma tanto mi pagano solamente se riesco a vendere. Invece non è così, giusto? In questo caso assolutamente no. Quindi è fondamentale. Ma probabilmente è un fatto culturale, la gente o non risponde o... ripeto, io la cosa, il grande dispiacere di tutta questa operazione è che c'è un problema secondo me sociale che non è stato preso in considerazione abbastanza. È vero, molti hanno scritto ma pagano solo provvigione, quando in questo caso specifico non è l'unico sulla terra, ce ne sono anche altri, anche non miei evidentemente, vengono dati gli stipendi. È chiaro che, e in più c'è che se uno vende bene ha anche le provvigioni? Sì, certo. Quindi in realtà è 1200 minimo, diciamo. 1200 minimo, macchina, pagati, diciamo, pranzi, cene, tutto quello che c'è da pagare, è un sistema provvigionale. Ma vengo più la formazione. È che io non ho la patente, mi prende anche se non ho la patente? Assolutamente no. Perfetto, ho fatto il colloquio di lavoro e non l'ho passato, fuori, volevo dire. Sei fuori. Senta, Malerba, possiamo dire anche questo, però, cioè ai ragazzi che ci ascoltano, che o ai genitori dei ragazzi che ci ascoltano, che insomma, buttarsi in un'esperienza di lavoro, anche se non è quella che uno si è immaginato nella vita, il lavoro di una vita, ho studiato, che ne so, filosofia e vorrei fare il ricercatore universitario, ma nel frattempo vado a fare il venditore. Va bene, cioè under 30, uno a 25-26 anni fa qualche anno questo lavoro, poi cambia e c'è tutto il tempo per crescere, cambiare direzione. Nel frattempo non si sta con le mani. Cioè lei da reclutatore consiglierebbe ai ragazzi di buttarsi sulla qualunque o no? Sì, nel senso che io, una delle analisi che abbiamo fatto è che loro avevano dei grossissimi sogni, giustamente, tutti noi li abbiamo, io oggi faccio quello che volevo fare nella vita. Il passaggio che forse manca è la tempistica, nel senso che il sogno non è come nei film americani che arriva in mezz'ora, un'ora, uno entra come fattorino ed esce come amministratore delegato in un'ora e mezza. il tempo di un film, magari diciamo, in 15 esatto. anni, magari in 20 anni, usandosi la modella di turno, no? Tra l'altro. Il problema è che ci sono dei passaggi dove io chiedo ai ragazzi di mettere sui CV anche le esperienze più umili, perché il fatto di aver fatto un cameriere, faccio un esempio, è un qualcosa che vuol dire che uno si muove in maniera relazionale, in maniera corretta, vuol dire che si alza il serventino, per certo. noi tutto questo è valore aggiunto. Molti lo fanno anche qui, non è che adesso bisogna fare tutto nel baffascio, però il problema vero è che la gente non, in questo momento probabilmente ha un sogno gigantesco, vuole quello, nello stesso tempo non vuole forse, ripeto, bisogna parlare sempre con i forse, fare quei passaggi intermedi che possono fare più o meno schifo. Io stesso l'ho fatto, io mi sono mantenuto a psicologia, non è certo una di quelle università che dà quintali di soldi da mangiare, io ho fatto il venditore di computer per mantenermi. Però anche qui giudicare col proprio metro di giudizio non è corretto, no? Quindi non è che sono fatto. No, ci limitiamo a prendere atto delle notizie, naturalmente, e magari anche per quanto riguarda dare qualche consiglio ai ragazzi. Buttatevi nelle esperienze di lavoro, stipendio, esperienza, relazioni, non state con le mani in mano e poi nella vita si cambia strada chissà quante volte. Grazie intanto Diego Malerba, numero uno di Execo, per averci raccontato questa notizia. Grazie. Ma soprattutto non si fa, molte volte non si inizia con il lavoro che poi è il lavoro che si farà tutta la vita, e questa è la vera cosa, che è la vera, assolutamente, che forse è anche il positivo di tutta questa flessibilità, esattamente questo, sì. Però va preso il positivo, nel senso, perché che sennò che noia tutta la vita fare sempre la stessa cosa. Inizi, allora, provi, fai una roba, lo dici a uno che esattamente per questo motivo ha deciso di fare l'attore, perché quello che non volevo era fare tutta la vita lo stesso lavoro. Però io, volendo fare l'attore, da ragazzino facevo l'attrezzista, cioè l'assistente dello scenografo, anzi dell'aiuto scenografo, e quindi scaricavo dei camion. È ovvio che non fosse il sogno della mia vita, però poi si inizia anche tempo. Così, esatto. 800 24 00 24, ascoltatori, che ne pensate? Traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua con vabbè, intanto i nostri account, va, l'account del programma chiocciola si può fare 24 su Twitter. Carlo, il tuo? Il mio è @CarloGabardini. Il mio è @AleMaurizzi. Siamo anche su Facebook, naturalmente si può fare _radio24, però se volete giocare con noi dovete digitare il numero verde 800 24 00 24 e darci un po' di suggerimenti positivi per i regali di Natale. Utili. Io ne ho tantissimo bisogno, ho solamente un giorno per fare i regali, quindi se potete anche, diciamo, proporre dei regali che non siano complicatissimi. Paola da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Pronto, Paola? Ci sente? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Oh, che bello sentirvi, mi tirate sempre su di morale il sabato e la domenica, almeno un po' di buone notizie, viste le cattive. Ci proviamo, grazie. Paola, grazie. Ma siete bravissime, ci riuscite al 100%. Cosa volevi dire? Allora, appena vi ho sentito, subito ho telefonato, perché quest'anno farò, penso, a mio parere personale, dei regali originalissimi. Mm-hmm. Mi faccio pubblicità da sola. Allora, brava. Mio marito. Vabbè, finché si fanno pubblicità ai propri regali di Natale, insomma, non mi sembra un'attività commerciale. Perfetto, bravo. Allora, mio marito ha l'abitudine ogni anno di fare di coltivare sul balcone i peperoncini piccanti. Lo faccio anch'io, signora. Sono buonissimi, sono biologici, all'aria aperta, non ci sono coloranti né conservanti, e li ho messi dentro dei vasetti che donerò a parenti ed amici come augurio di buona fortuna. Bello, ma con l'olio? Olio di oliva, extravergine di questi luoghi, che sono, è un olio buonissimo, a bassissima acidità. Ma ha un balcone, ha un balcone gigante oppure ha solamente pochi amici selezionati? Non ho un balcone abbastanza lungo, di 3-4 metri, che ridà sulla campagna. Che non dà sulla tangenziale, perché sennò... No, è per quello che ho detto che è biologico, non c'è inquinamento. È una bellissima idea, Paola, grazie. Secondo me già questa candidatura parte bene, pare col piede giusto, molto bene. Questa è una bellissima idea. Certo, bisogna partire per tempo, devi seminarle ad agosto, credo, i peperoncini. Prima. Ad agosto sono se già non su. Ci pensi prima, non ce la fai. Però se ci pensi, più adesso, in primavera... Ma che ne devi avere tanti, aprile. Però, perché non è che puoi regalare due peperoncini. Ma anch'io li ho piantati una volta. Io qualche semino ti fa un sacco di peperoncini. È vero, però diciamo, un po' di vasetti ne avrò 90 peperoncini, non è che posso, con quattro fratelli, 90... Vabbè, ma 90 peperoncini, non è che posso regalare due peperoncini a testa. Però è un'ottima idea, se si ha un balcone di 4 metri sulla campagna. Alessandro da Vicenza, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. E niente, io chiamavo per l'ultimo intervento, sì, del bando che è andato, diciamo, a vuoto dei ragazzi che cercavano lavori commerciali, insomma, sì, l'agenzia. Niente, io ho pubblicato questa settimana sul mio profilo Facebook l'articolo preso da un settimanale e sono rimasto abbastanza stupefatto da come è stato preso, più che altro non per l'articolo ma per i commenti che ho letto. Ma l'articolo di cui parlavamo noi, cioè del caso? Sì, perfetto. Sì, c'erano dei commenti molto pesanti e anche un po' stupidi. Esatto, e molto ovviamente dico, io lavoro anche un po' nel mondo delle cooperative, così delle ricerche del personale, e vedo le persone, insomma, che sono i giovani abbastanza demotivati, insomma, ecco, questo forse è il discorso, e questo va un po', diciamo, sì, essendo demotivati anche si lasciano scappare questo quindi tipo, Alessandro, di cioè, lei dice, prima di attaccare le società di reclutamento accusandole di offrire falsi posti di lavoro o cose del genere, bisogna anche ogni tanto ragionare sullo scoraggiamento che c'è tra i giovani e semmai affrontare questo argomento qua. Esatto, sì, perché anziché, diciamo, questa... puntare il dito contro loro. Sono d'accordo, sì. Ecco, va bene, grazie. Grazie mille. Buon sabato, buona giornata. Ciao Alessandro. Chiudiamo con Margherita, va? Un minuto, da Bologna. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora, intanto vi do un consiglio per velocissimo per chi non si è preparato del materiale prima. Si può andare nei negozi tutto un euro, prendere delle calamite e scrivere fare un disegno grazioso sulla calamita, personalizzare la calamita. Ma bisogna saper disegnare, mi deve venire a aiutare le miniature, perché io non sono buono a disegnare. Poi sulla calamita con cosa comunque, si disegna? Calamita, con della polvere di ferro? No, le calamite, quelle, cioè, ci sono tipo dei cuoricini, certo. dei tondi colorati, quindi ci sono delle penne sottili che scrivono appositamente sulla plastica. Ok, calamita personalizzata. Questo, diciamo, sì, è il primo suggerimento, sì. Margherita, per il secondo però abbiamo 15 secondi, se ce la facciamo, sì. Allora, no, lo facciamo dopo. Allora, dai. Marmellate fatte in casa con la propria frutta e in pacchetti decorati con cerchietti delle bottiglie, quelli di plastica. Va bene, l'abbiamo detta, se dobbiamo specificare qualcosa ci torniamo dopo il GR. Grazie Margherita. Grazie mille, a dopo. Buon Natale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota che punta verso galassia a cercare vita, come nei sabati sera in provincia che sembra tutto finito poi ricomincia. Sabato è sempre sabato, anche di lunedì sera è sempre sabato sera, quando non si lavora è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Strappa le stelle dal cielo, lascia solo i led, voglio ballare come Michael nel video di Bad, stare leggeri come due farfalle appena venute fuori dal solo sulla scena, sembrano tutti più contenti di noi, ma per un giorno lo sai, possiamo essere eroi. A bordo di un'astronave senza pilota che punta verso galassie dove c'è vita, come in un sabato sera in provincia che sembra tutto finito poi ricomincia. Sabato, sabato è sempre sabato, anche di lunedì sera è sempre sabato sera, quando non si lavora è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. dillo a tua madre di andarsene a letto tranquilla. E questa è Si può fare, anzi è il nostro Si può fare in musica. Era Jovanotti che cantava Sabato, un'anteprima che abbiamo di Jovanotti che è del suo nuovo lavoro. E essendo sabato ci sembrava perfetto, cioè, diciamo. Domani faremo sentire Domenica e lunedì noi non ci siamo in onda. Per fortuna, perché esatto, siamo finite le canzoni. Senti che andamento che ha questa Sabato di Jovanotti. Non so, devo decifrarlo, un po' orientale, giante. Ma poi è una canzone assolutamente scritta per noi, perché dice sabato, domenica, non vedo l'ora che arrivi un altro lunedì. Diciamo, è per quelli che lavorano il sabato e domenica, si può fare. Prima o poi dobbiamo chiamarlo in onda e farci spiegare come nasce questa canzone di sabato. Esatto, però dobbiamo ricordare che è la canzone scelta dalla nostra ascoltatrice Rosaria Filippi, che ci ha proposto questa canzone. Vi ricordiamo che potete consigliarci, proporci i vostri Si può fare in musica, che poi noi faremo sentire durante la trasmissione. Lo potete fare sui nostri social, che abbiamo già detto prima, ma che ripetiamo, che sono l'account di Facebook, oppure su quello di Si può fare, su quello di Twitter, che è @sipuofare24, oppure sui nostri personali. Il mio è @CarloGabardini e il mio è @AleMaurizzi. E allora andiamo con un po' di ascoltatori e comincerei con Elvira, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Elvira. Da Tiene, Vicenza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Da Tiene. Simpaticissimi. Grazie. All'unisono, prego, su cosa voleva intervenire? Parli Elvira subito, che sennò ci emozioniamo noi. Anche io sono emozionata. Perfetto, siamo emozionati tutti, ma dobbiamo dire delle cose, perché non è che possiamo allora, solamente. Allora, volevo dire che io ho fatto tanti pompon con gli avanzi dei lavori di lana che facevo. Oh, pompon. E ho fatto l'albero di Natale, tutto colorato. Era tantissimo che non sentivo dire la parola pompon. Ma i pompon, io. Ma è vero, i pompon, se non ricordo male, perché io li avevo fatti a scuola quando ero ragazzino. Si fanno con due cerchi di cartone e si avvolge intorno tutto esatto, la lana e poi si taglia in mezzo ai due cerchi di cartone. Esatto, non ho capito, bravo, niente. So però fare i pompon. Cioè, voi che lo sapete fare vi siete capiti. Io non ho capito nulla. Però è bello. E il pompon, Elvira, a chi si regala? Esatto. A cosa serve? No, faccio l'albero di Natale. Ah, le appende all'albero. Sono palle dell'albero di Natale. Ma certo. Bello. E dopo si attaccano sui cappellini dei nipoti, no? Anche. Oppure ci gioca il gatto? No, li metterò da parte per la prossima volta. Va bene, certo, Elvira. Ho lavorato tanto. Brava, grazie. Grazie mille. È un bel suggerimento. Può essere anche un regalo divertente, originale, non costa nulla. Io vorrei avvisare tutti i miei fratelli che quest'anno gli regalerò dei gran pompon. Adesso vado a casa, faccio due cerchi di cartone con tutte le scatole di cartone del trasloco che ho e faccio pompon. Guarda, mi viene in mente, sono stato l'altro giorno a scuola di mia figlia, a scuola materna. C'era il mercatino con i regali autoprodotti ai genitori. Il pompon non c'era. Vedi. Perché l'avrei comprato. Invece c'era un mattone spaccato a metà, colorato, sai, con il mattone con dentro le intercapedini, che diventavano altrettanti posti dove mettere tipo portapenne. Ah, però, ma spaccato? Un po' impegnativo, sì, è anche un po' tagliente, tra l'altro, devo dire. Ah, spaccato, perché quello era il gesto artistico, sì, diciamo, non sì, è un intero sì, mattone, era un mezzo mattone. Mattone che diventava un portapenne con quattro posti. Perfetto. Colorato. E mi sembra anche un perfetto oggetto contundente, diciamo, esatto, per farci perlomeno una puntata di CSI, per non dire della cronaca nera, diciamo, sui nostri giornali quotidiani italiani. Infatti avrei preferito i pompon di Elvira. Fanno meno male, diciamo, quando ti arrabbi. Pino da Pescara, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io volevo fare un annuncio in diretta, se possibile, a tutti gli under over 30 che rinunciano al commerciale. Mi riferisco a quella. Sì. Agli under o agli over, l'annuncio? A tutti e due, a tutti, tutti e due, perché le opportunità non si possono lasciare così buttate. Bravo al vento. Pino, è vero. Io sono partito anch'io del commerciale, poi nell'arco degli anni si cambia. Cioè l'orgoglio certo, dei commerciali, chi ci stanno chiamando tutti, bravo. Ma lei ha 30 anni, giusto? No, no, io c'ero un po' di più, ma falsificherei la data di nascita. No, no, per noi lei ne ha 30, perché giustamente no, sta sgridando gli over 30 e gli under 30, cioè gli unici che si salvano sono i trentenni, precisi. Sì, però se non si mettono in gioco nel lavoro, le opportunità non capitano mai, non capitano. Quindi giusto, bisogna buttarsi oggi come oggi, soprattutto perché la crisi se la creano da soli alla fine, no? Certo, beh, se uno, un momento, la crisi c'è, però se uno c'è, diciamo. Però se uno non risponde agli annunci, sì. Però voglio dire, se un'azienda dà 1200 euro al mese, sì, sì, la macchina aziendale, pagato tutto, carta di credito, eccetera, siamo a 3500 euro al mese, ragazzi. No, ma poi se un'azienda l'azienda offre queste possibilità e chi è disoccupato non ci prova, è un peccato. In questo caso sì, la crisi ce la creiamo da soli, solo in questo caso. Poi devi essere tu dentro a cacciare tutta la grinta. Pino, la possibilità ci dica una cosa bella, bellissima del commerciale. Sì. Chi fa questo lavoro ha una marcia in più degli altri, perché? Si sente libero di essere se stesso e di dare tutto quello che è nell'anima e nel lavoro, quindi crearsi un suo mondo, insomma, tutto qui. Grazie mille. Buon sabato e auguri. Buon Natale. Laura da Terni, chiudiamo questo blocco prima del traffico. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho riciclato le vecchie lampadine per fare delle palline per l'albero di Natale. Ah, però. Ma non sono pericolose? No, pericolose in che senso? È che se cadono, diciamo... No, ho scoperto che il vetro delle lampadine è molto resistente, perché qualche volta mi sono cadute per terra. Ma come? Questa è una vera novità. Io ci sto sempre attentissimo. Le ho spalmate con il Vinavil, sì, con il pennello. Poi dopo ho comprato quei bottiglini di porporina colorata, che ne sono di tutti i colori. Che delicatezza. Ho fatto cadere a pioggia questa porporina sulla superficie della lampadina, poi ho trovato il modo per mettere un cordino, un laccetto, e ho appeso un ramo. Ma tante lampadine, ma sono vecchie lampadine o sono lampadine ancora funzionanti? No, sono lampadine fulminate, vecchie, le ho raccolte. Cioè, anziché buttarle. E da quando è che hai iniziato a raccogliere lampadine fulminate? Tre anni fa. Amici e parenti di tenermele. Laura, anche questo è un caso in cui bisogna organizzarsi per tempo, però. Sì. Perché se no, cosa fai? Smonti le lampadine di casa per regalarle. Devi pensarci. È un'ottima idea, diciamo, per Natale 2018, se possiamo dire, perché per questo è un po' difficile. Oppure avremo gente che va in giro adesso a cercare lampadine usate su eBay. Anche così, certo. Giusto, è una bellissima idea. Brava Laura, complimenti, grazie. Grazie mille, buon Natale. Complimenti per la trasmissione. Grazie, buon sabato. Poi sai, non si sa mai, magari metti anche qualche lampadina ancora funzionante, ci fai passare un filino e diventa la lampadina che si illumina, cioè la pallina illuminata. O comunque quest'anno le fai, diciamo, le usi le lampadine, puoi anche andare a comprarle, però dopo le usi tutto l'anno quelle lampadine, non le devi mettere nella scatola, diciamo, dell'albero di Natale e ritirare fuori l'anno prossimo, le puoi attaccare nelle tue lampade. 800 24 00 24, abbiamo già un bel po' di suggerimenti degli ascoltatori per così liberarci dallo stress di Natale, con dei suggerimenti per dei regali intelligenti, originali, economici, di riciclo, e quindi stiamo andando alla grande. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. It's always more fun to share with everyone. It's always more fun to share with everyone. If you have to give one to your friend, if you have three, give one to your friend and me. It's always more fun to share with everyone. It's always more fun to share with everyone. If you have one, something you can learn. You can still share just by taking turns. If you've got a ball, bounce it to the gang. If there is a new kid, invite him out to hang. If you've got one sandwich, cut that thing in half. If you know a secret joke, tell it and share a laugh. If you've got one drumstick. Con questa sharing song di Jack Johnson, che ci piace sempre moltissimo, io intanto devo dire una cosa, perché per me c'è già il derby tra le due ascoltatrici, Paola da Pescara con i peperoncini in vasetto e Laura da Terni con le lampadine colorate da appendere all'albero. Per me sono già in fuga, è bellissima questa cosa ed è subito derby. È subito derby, ascoltatori, avete ancora tempo 800 24 00 24 per superare, per infilarvi, diciamo, per infilarvi, per diventare un triangolare, addirittura derby. D'arrivo e insomma darci un suggerimento ancora più bello, ancora più originale. Intanto però la canzone della condivisione, Jack Johnson, perché vogliamo parlare di uno spazio di condivisione, di co-working, che nasce in un piccolo comune in provincia di Bologna, Monte Veglio. In realtà non è più Monte Veglio, ma è Valsamoggia. Sembra che stia facendo confusione, in realtà la notizia, nella notizia ne parliamo con Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, perché sindaco, nei locali lasciati vuoti da un comune che non c'è più, adesso c'è qualcos'altro. Aggiungo confusione alla confusione. Ci spieghi lei che cosa è successo? Sì, è molto semplice. Noi siamo un territorio un po' particolare perché oltre al posto che sta lì a lamentarsi che non ci sono soldi, che c'è il patto di stabilità, che non si riescono a fare le cose, abbiamo deciso di unire i nostri 5 comuni e risparmiare un po' di soldi pubblici, e addirittura nei locali che abbiamo lasciato vuoti dalla riorganizzazione abbiamo pensato di utilizzarli per la collettività. In questo caso l'ex comune di Monteveglio, il municipio del comune di Monteveglio, abbiamo deciso di darlo ad un'associazione che ci consentirà di fare, di ospitare degli imprese, delle start-up, e quindi creare gli spazi di co-working. Il famoso co-working. Ma è bellissimo. Siete il nostro comune di riferimento, volevo dirvi, nel senso che siete proprio il comune di si può fare, cioè mettersi insieme per risparmiare. Cioè proprio far vedere plasticamente alla gente che il risparmio consiste nel fatto che fisicamente adesso i locali del comune sono occupati da qualcos'altro. 5 comuni fusi, quindi non solo Monteveglio, con quali sono questi comuni? Ce lo vuoi ricordare? Sono il comune di Crespellano, di Bazzano, Monteveglio, Castello di Servale e Savigno. Siamo diventati il quarto comune di Bologna, 30.000 abitanti, e pensate che noi risparmiamo il 10% della spesa pubblica del nostro territorio, che equivale a circa 2 milioni e mezzo all'anno tra incentivi e risparmi che noi adesso possiamo rigirare ai nostri cittadini. Poi i comuni fusi sono fuori dal patto di stabilità, il famigerato patto di stabilità, quindi noi abbiamo approvato un piano degli investimenti da 30 milioni di euro con scuole, strade, riparazione di frane, fiumi, quindi è tutto un altro mondo. Scusi, questa cosa non si può fare, questa cosa. Bravo, complimenti. Questa la usiamo nel promo. Ma veramente i comuni che si fondono hanno il diritto di stare fuori dal patto di stabilità? Io questo non lo sapevo. Sono fuori dal patto di stabilità per i primi 3 anni e poi adesso c'è un emendamento anche al Senato che li porta a 5, perché lo Stato sta incentivando queste forme di riorganizzazione, perché lo Stato non può costare ancora così tanto come è costato in passato. Dobbiamo darci da fare, non solo lamentarci, e la dimostrazione di Valsamoggia è che si può riformare anche lo Stato. Ma voi fra 3 anni vi fonderete con un altro comune ancora e lentamente diventerete tutta l'Italia diventerà un unico gigantesco comune di Valsamoggia, finalmente, di modo che sarete fuori dal patto di stabilità per sempre. Mondiale. Qualcheduno ce l'ha detto, in realtà speriamo che il patto di stabilità poi possa essere superato in altre forme. No, ma infatti è che sono lo stupido dei due, stavo facendo una battuta, non mi permetterei. Non era male. Però è molto bella questa, ma chiunque può decidere, cioè un comune può decidere di unirsi con un altro comune? Assolutamente sì, tra l'altro lo Stato prevede dei fondi di finanziamento per questo tipo di fusioni, per questo tipo di riorganizzazione territoriale, ma fino ad ora, da quando c'è questa legge, sono decenni, non l'aveva praticamente mai utilizzata nessuno. Noi siamo la fusione più grossa che è avvenuta in Italia e che è avvenuta concretamente, perché per la verità in molti partono, poi dopo per un motivo o per l'altro si fermano. Ma faccio un'altra domanda stupida, ma i due comuni devono, o i due, o i tre, o i quattro, devono essere ovviamente confinanti? Assolutamente sì, e non ci può essere un buco in mezzo, cioè non puoi fare una ciambella in mezzo. Ah, ecco, no, perché se non puoi accerchiare, diciamo, un altro comune. Altrimenti devi conquistare anche quel comune lì. Ma è un gioco bellissimo, fondi il comune. Sì, una specie di risico virtuoso. È il gioco virtuoso. Di Natale, esatto. E tra l'altro devo dire che avendo abitato anche a Bologna per un po', Crespellano, questi comuni qua sono comuni grossi, cioè non è che ci hanno messo su due comuni da 1.000 abitanti. Detto che sono 30.000 abitanti. Alla fine adesso sono 30.000, quindi avete cioè un bello sforzo. E c'è stato un referendum, vero? Siete passati attraverso il voto di gradimento dei cittadini, o ricordo male? Sì, assolutamente sì, c'è stato un referendum obbligatorio per legge, un referendum che si è svolto a novembre del 2012. Noi abbiamo avuto l'idea di proporre questa cosa alla cittadinanza nel 2009, quando siamo entrati in carica nel precedente mandato amministrativo. Abbiamo commissionato lo studio di fattibilità all'Università di Bologna, l'abbiamo proposto alla cittadinanza. Abbiamo deciso di fare questo passaggio che di solito si ferma molto semplicemente, perché lo capite anche voi, di 5 sindaci 1, di 77 consiglieri 16, di 23 assessori 5, quindi capite che molto spesso dove si ferma fermano questi processi, non dalla volontà popolare, ma si fermano in altre stanze. Ma certo. Comunque, complimenti. Tanto... Quanti comuni ci sono tra Valsamoggia e Milano? Venite a prendere anche Milano, annettiamoci, annettiamoci entro Expo. Ce ne sono un po' tanti, però verremo ad Expo perché abbiamo un buon vino che vogliamo promuovere, quindi il Pignoletto, quindi verremo anche Expo. Fantastico. Allora vengo a trovarvi. Senta, però ci dica ancora un paio di parole su questo spazio di coworking che avete creato nei locali, cioè tutto quello che era il comune di Monteveglio, lo spazio occupato dal comune viene, diciamo, offerto a queste associazioni o solo una parte degli spazi? Allora, in realtà gli ex comuni, il piano terra rimane come centro servizi, il cosiddetto sportello del cittadino, perché il comune unico non allontana i servizi ma li lascia sul territorio, quindi tutti gli ex comuni rimangono sede dei servizi dello sportello del cittadino. Sì. Questo è il piano terra. Il piano primo e il piano secondo invece verranno utilizzati per queste cose, ma vi dirò di più, in una parte dello spazio di coworking è nato anche il primo Fab Lab della Valsamoggia, quindi avremo stampante 3D, scanner, laser cutter. Bisogna dirlo, insegneremo anche alla gente. Bisogna dirlo a Temporelli, al nostro Massimo Temporelli, il nostro uomo del Fab Lab. Esatto. Io diciamo. Sono tale da costruire anche gli artigiani del futuro. Bene. E abbiamo veramente un gruppo di ragazzi che. E si può fare anche impresa in modo notevole, non è solamente come uno pensa un titolo sul giornale, ma questa è la futura impresa. Beh, bellissimo. Senza parole, Sì, mi piace un sacco. Questa efficienza cosa. Ogni tanto la ritrovi nei piccoli comuni. Sì, insomma. Ma poi mi piace perché ho la sensazione, anzi, ce lo dica lei, sindaco, ho la sensazione che in realtà sia anche molto utile per far sentire i cittadini parte di un progetto. Perché nel momento che tu devi andare a votare, se vuoi annetterti, unirti, fonderti insieme ai tuoi vicini, diciamo, di comune, mi sembra un bel momento. Infatti questa probabilmente è la parte più difficile, superare le diffidenze e anche quel campanilismo che esatto. C'è in Italia. Infatti il referendum ovviamente è stato un percorso molto difficile, ma l'ultima tornata elettorale la mia amministrazione ha preso il 60% dei voti, quindi anche le difficoltà che ci sono state, le diffidenze su questo progetto, poi sono state superate perché la gente ha capito che facendo questo ha avuto dei benefici, risparmiando soldi che invece finivano in carte bollate e burocrazia. Ma è un progetto stupendo, ma mi scusi, è reversibile questo processo? È reversibile fino a un certo punto, nel senso che la legge prevede che un comune si può separare, però non meno diciamo in zone con meno di 10.000 abitanti, quindi non si può più tornare ai 5, si potrebbe tornare ai 3. Ma poi non ci voglio nemmeno pensare. No, grazie. Ero curioso così della burocrazia, diciamo. Grazie mille. Sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno. Grazie a voi, buon lavoro. Beh, una notizia bellissima, bellissima, veramente. Dobbiamo proporlo, secondo me, a Massimo Temporelli, come il lavoro del futuro è il fonditore di comuni. Eh sì. È proprio che tu hai il crogiuolo e butti dentro i comuni. E dentro ci fai degli spazi di coworking, esatto. O dei Fab Lab. Tra poco ne parliamo con Massimo Temporelli, non di questo, ma magari anche di questo. Adesso però sentiamo un paio di ascoltatori mentre mi sta andando via la voce. Luca da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e buongiorno a tutta Italia. Buongiorno. Complimenti innanzitutto per la trasmissione. Grazie. Io volevo portare la mia testimonianza in merito all'offerta di lavoro di cui si parlava prima. Sì, sì. Semplicemente io sono un agente di commercio da 25 anni. Io non ho mai avuto né fissi né stipendi. Ho sempre lavorato di provvigioni, mettendomi in gioco costantemente tutti i santi giorni, tutte le sante mattine quando ci si alza. Dico che buttare via opportunità del genere è da sciocchi e dico pure che la vendita è un gran bel mestiere, perché ci si mette in gioco sempre, ci sono delle grandissime soddisfazioni, a volte si prendono anche delle grandi schiaffi, per carità di Dio esiste anche questo. Tipo ce ne racconti uno, se le viene in mente. Quando si trovano poi quei clienti che hai scardinato qualsiasi loro pregiudizio, qualsiasi loro tentativo di tenerti fuori, poi alla fine ci inventano la scusa più stupida esistente al mondo. Quello cioè che tu hai superato tutte le barriere, sei già convinto di avergli venduto tutto e poi alla fine... Esatto, e poi ti dicono ma guardi, rimango così, sono a posto così. Però quella è una categoria di acquirenti e potenziali clienti che non avranno vita facile o futuro. Ma certo, questi sono degli attori, però fanno figlio, cioè recitano la parte e poi in fondo ti danno. Sì, ma ce ne sono tantissimi di questo genere. Poi guardi, dipende poi dai settori, perché ci sono settori dove chiaramente il compratore è un compratore super preparato, quindi molto professionista, e quindi hai la possibilità di interloquire con grande diciamo conoscenza e va in sintonia subito. Poi ci sono dei compratori che non sanno neanche di cosa stanno trattando e quindi diventa lì molto più difficile cercare capire cosa che si vuole vendere. Ma come mai secondo lei in Italia invece la figura del venditore, diciamo del commerciale, ha quest'aura di negatività intorno? Perché ci sono stati tanti agenti che erano delle sole più che dei venditori, quindi alla fine la figura dell'agente secondo me si è un po' sporcata, perché di professionalità spesso viene a meno. Certo, quindi diciamo c'è una parte di responsabilità anche dei commerciali stessi che hanno... Sì, perché io, essendo un'attività di vendita, devi conoscere quello che stai vendendo e devi capire innanzitutto le esigenze di chi ti sta davanti. Certo. Se non fai ricerca, se non ti formi, se non ti prepari, c'è poco da fare. Vai fuori e ti presenti in una maniera non corretta. È facile poi che vengano le insoddisfazioni. Poi diciamo in altri casi ci sono aziende di eccellenza che mettono a disposizione dei corsi di formazione per preparare il proprio agente nel migliore dei modi, anche perché poi c'è la loro immagine che viene portata in giro per l'Italia, di conseguenza tengono che la persona sia al top della professionalità. Grazie Luca, grazie, fermiamoci qua perché abbiamo anche altri ascoltatori in linea. Senti, l'orgoglio dei venditori stamattina sta emergendo. Bellissimo. Tutto. Abbiamo capito che lo spauracchio è sono a posto così, cioè lo spauracchio del venditore è sono a posto così, giustamente. Rispondi tu a Di Pasella su Twitter, che però a me sul mio account mi chiede, ma sales account in italiano sta per... Sales account, tu che sai le lingue, Gabardini, non le sai le lingue, mi guardare così. Il tedesco lo sai pure l'inglese, ma sales account è non il venditore. Si sa. È il venditore. Non so perché ci chiede questo, forse c'era in uno dei bandi di cui abbiamo parlato. Poi Diana Scalvini chiede, dice: regalo dell'ultimo momento, biglietti Expo, li stampi in casa, paghi con carta di credito. Ciao Diana, anche questo potrebbe essere un'idea. Riccardo da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego, cosa voleva dire? Su cosa voleva intervenire Riccardo? Io ho regalato un giardinetto zen, quelli da mettere sopra il tavolo, in salotto, eccetera, eccetera, fatto con il telaietto di legno e poi prendendo la sabbia, quella bella bianca pura che si trova in vendita, raccogliendo dei sassi dal mare o dal fiume con i legnetti, facendo... L'ha fatto proprio lei Riccardo? Assolutamente. Partendo da un telaietto di legno? Assolutamente sì, una tavola, poi una cornicetta intorno, si inchioda insieme, poi gli si dà una bella pitturatina marrone, eccetera, eccetera, con sfumature, poi sabbia. Si trova questa sabbia bianca purissima che si trova nel fiorai in vendita tranquillamente, e poi il bello è a questo punto, cioè raccogliere dei legnetti, quelli del mare, eccetera, eccetera, si fa il rastrellino, perché questo è il must, cioè il rastrellino deve essere fatto con le proprie mani, eccetera, eccetera, e poi ci si aggiungono delle pietre e poi, non so, una piantina bonsai oppure quelle che piante. Però l'acqua e l'impianto di irrigazione, cioè perché spesso nei giardinetti zen, o mi sbaglio io, no? Quali sono le fontane zen? È un'altra cosa. No, lei ha ragione, ci sono anche dei giardinetti zen che hanno la fontanella, quella tipo da presepe. Qui però bisogna essere laureati in ingegneria, sì, è troppo complicato. Come direbbe Crociani, è il top. No, è il top. Noi ci fermiamo un gradino prima del top con un telaietto, come ci ha spiegato lei, fatto topo con la sabbia e i sassi. Beh, anche questa è un'idea originale, Riccardo. Grazie. Grazie. Carlo, come la vedi? Il giardino zen è un po' complesso. È molto come difficile. Poi... E poi è anche impegnativo regalarlo, forse. Poi di solito chi apprezza il giardino zen c'ha anche un sacco di fisime, giustamente. Quindi magari gli metti dentro dei sassi che non gli piacciono. E se sbagli il sassetto e non è quello, finisce male l'amicizia. E non è posizionato giusto nei confronti del sole, poi dopo... Non c'ha l'inclinazione, come si chiama? Portaiella, magari. Quella cosa per cui le cose devono avere un orientamento in casa. Ti ricordi? C'ha un nome quella cosa, in base alle energie. Non mi ricordo come si chiama, vabbè. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. C'è una ascoltatore che al 3492386666 Max dice: stai parlando del Feng Shui, eh? È quella la cosa. Esatto. Quando tu devi orientare tutto in un certo modo in casa, compresi i sassetti del giardino zen. Sì. Sì, e guarda, riuscito. No, siccome lunedì vado in una nuova casa, c'ho mio fratello architetto, quindi col Feng Shui. Esatto. Secondo te Riccardo si è inserito nel derby tra Paola e Laura, tra le lampadine colorate come palle di Natale e i peperoncini? Con che cosa che si è inserito? Col giardino zen. Col giardino Riccardo. Zen. Non lo so. Forse sì. Poi ragazzi, votiamo tutti, stamattina siamo in 5 e poi tra un po' diciamo chi vince biglietti e catalogo di Chagall. Ma questa è la musica di Massimo Temporelli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Massimo. Tu nel tuo Fab Lab di Milano hai prodotto qualcosa, qualcosa da regalare di economico, intelligente, riciclabile ed originale? Vuoi partecipare sì. anche tu al gioco che stiamo facendo? No, abbiamo una bellissima iniziativa su Leonardo da Vinci, di cui sentirete tanto parlare, perché è un'iniziativa a chilometri zero, legno di pioppo, fogli di legno, costruiamo le macchine di Leonardo da Vinci, che possono essere o costruite tridimensionalmente oppure lasciate su foglio, disegnate, ed è un regalo bellissimo che però adesso è in prototipo e diventerà un regalo vero nel 2015. No, bello, ma non ho capito, è un disegno di Leonardo da Vinci stampato sul legno? Sono i codici di Leonardo disegnati dalla laser, quindi va a incidere proprio il legno fino a tagliarlo, disegnati su fogli di legno che possono essere lasciati a libro per consultarli come se fossero disegni, oppure con una leggera forza, pressione sul foglio si staccano i pezzi e diventano degli elementi che formano la macchina tridimensionale di Leonardo per farla funzionare realmente. Che bello. E, sì, sono i codici di Leonardo. Leonardo non ce lo ricordiamo, ma ha vissuto 20 anni qua a Milano e quindi è un po' un tributo al primo maker italiano. O della bello, storia, Leonardo, primo maker mi sembra un ottimo claim. Come diciamo. L'avevano chiamato per lavorare al cantiere del Duomo di Milano. Questa è una cosa che sanno forse in pochi. Sì, anche tutte le chiuse dei Navigli. Infatti, al Duomo di Milano non presero i suoi progetti, usarono i progetti di altri architetti, mentre per i Navigli ci sono c'è la sua mano. Massimo, noi adesso siamo qua per il nostro appuntamento I Lavori del Futuro. Questa è la penultima puntata mattutina di Si può fare, perché poi c'è la pausa natalizia. Io farò qualche puntata la sera durante Natale, però insomma noi intanto ci facciamo un po' gli auguri, ci salutiamo. Ma io sono tristissimo, ci stiamo salutando? No, ma poi ci risentiamo, perché il Festival dei Lavori del Futuro arriverà quando? Sì. Allora, 27, 28 e 29 marzo, che è l'ultimo weekend di marzo, ce l'abbiamo fatta. Siamo tiratissimi come tutti in questo momento in Italia e nel mondo, quindi siamo di corsa, però è ormai la data ufficiale e io sono molto orgoglioso di questa cosa perché è nata da un'idea che incrocia Francesco Colorni, il SIAM, che è Società Incoraggiamento Arti e Mestiero, Lucchino Visconti, che è proprietario di questo bellissimo borgo che è Grazzano Visconti, e insieme abbiamo messo insieme appunto questo festival che incoraggia le persone a guardare, come fate voi tutti i giorni, verso un futuro migliore, verso un futuro più umano, che ahimè, secondo alcuni, ingloberà anche la tecnologia. Noi siamo invece assolutamente positivi rispetto alla tecnologia, ma non se ne può più fare a meno. Quindi nei lavori del futuro vediamo tantissima tecnologia, ma tantissimi esseri umani che usano il cervello, che è la cosa che la tecnologia di solito non può mettere, per pilotare, utilizzare le tecnologie. Quindi cercheremo veramente di dare coraggio alle persone che già lo stanno facendo questa operazione, ma sono isolati, sono ancora pochi, non sono codificati, non sanno darsi un nome, che è la cosa più terribile. Come si dice, li mettete in rete e poi, insomma, a parte questa espressione un po' così, insomma, gli darete la possibilità di vedersi in faccia l'un con l'altro, e anche invece a chi magari non ha idee, talenti o entusiasmo al momento, gli darete la possibilità di affacciarsi su questo mondo e di crearselo un talento. C'è un'altra cosa che di questa settimana che ti riguarda, Massimo, di cui avevamo accennato. Io è uscito un articolo su 7 che parla di una cosa che ti riguarda, un programma televisivo, adesso si può dire? Sì, ufficiale, anche questo è bellissimo, X-Makers, un programma di Agostini, di cui anche di questo siamo orgogliosissimi, perché Agostini è una grande casa editrice che ha anche dei canali televisivi e per bambini. Cosa rara, si fa un programma, cavolo, italiano sulla tecnologia che in America ancora non hanno fatto. Cioè, noi promuoveremo in questo programma un approccio alla tecnologia, all'educazione completamente nuovo, che è una cosa che dovrebbe renderci orgogliosi tutti, perché è il primo programma, credo, al mondo, sicuramente in Europa, dedicato al mondo della stampante 3D, di Arduino, della digital fabrication, dedicato proprio alla fascia dei bambini, che sono quelli più sensibili a questo nuovo mondo, dagli 8 ai 14 anni, ai 12 anni, e che saranno quelli che costruiranno il nostro futuro. E quindi evviva! Insomma, con Giovanni Muciaccia, che farà un po' da pilota, da capo, ci saranno dei bambini che vi chiederanno di fare delle cose, voi le farete. Adesso non so se si può dire di più, questo è il programma che andrà in onda su quale canale? Esattamente. Dea Kids, dalla primavera, anche lì intorno a fine marzo, prima di aprile, su Sky, piattaforma Sky. Ok. Detto tutto quello che nascano delle cose cross mediali, come si dice, che invadono anche il web, perché abbiamo proprio bisogno di contaminare il mondo. Benissimo. Detto tutto quello che dovevamo dire, la parte visiva di quello che noi abbiamo fatto solamente per voce da un anno. Ottimo. Sì. Ottimo. E poi comunque io direi che in vista del Festival dei Lavori del Futuro a fine marzo e qualche altro appuntamento ce lo creiamo sicuramente anno nuovo, certo. Facciamo così una carrellata, una pennellatina di quello di cui abbiamo parlato, i lavori del futuro, i best of, i più belli, quelli abbiamo sono più abbiamo cominciato con i droni, perché ormai appunto sono sulla bocca di tutti. Abbiamo parlato di pilota di droni, dicendo che appunto oltre al pilota ci saranno gli addestratori, ci saranno i costruttori di droni, sarà proprio un ecosistema quello intorno ai droni. Poi abbiamo parlato di contadino urbano, quindi di quelli che usano le tecnologie per coltivare anche coltivare in città. Poi abbiamo parlato di arduinisti, che questa nuova tecnologia, non nuovissima, ha qualche anno, una decina d'anni, che permette di customizzare circuiti elettronici, quindi uno in casa può farsi la qualunque o farsela fare da tecnici specializzati appunto con Arduino. Poi abbiamo parlato del generalista, che secondo me è la figura chiave del secolo, perché sarà colui che non sa nulla di specifico di un campo, ma ne sa di un po' e riesce a connettere i vari professionisti, che, ripeto, per la complessità del mondo che ci aspetta, persone che sappiano parlare più linguaggi sono fondamentali. Mi sembrava, all'inizio della descrizione di questo lavoro, mi sembrava che fosse molto adatta a me, cioè non sa nulla, mi sembrava perfetto. Poi, esatto. Poi c'è quella parte più relazionale che non lo so, scusami, vai avanti. No. Poi abbiamo visto, mi sembra, l'addestratore di robot, altra figura fondamentale che non è da confondersi con il programmatore classico di robot di oggi, cioè proprio abbiamo parlato di questi robot che autoapprendono e che quindi vanno proprio addestrati come se fossero, permettetemi, dei cani, e che quindi vanno proprio addestrati come degli esseri viventi e che poi dopo svolgeranno delle azioni imparando da quello che hanno visto dal loro addestratore e inventandosi delle soluzioni su misura tutte le volte. Questo è un tema grossissimo appunto che è fondamentale insomma per il prossimo futuro. Poi l'economista della felicità, un amico, Luciano Canova, si è inventato questa cosa, poi esiste tutto un filone sull'economia della felicità, sicuramente anche lì nelle aziende, nella società, nei territori, immaginarsi come la felicità incide anche sul rendimento. Quindi non far quadrare solo freddamente i conti, i numeri, ma anche occuparsi di quest'altro aspetto, insomma, non trascurabile. L'economista della felicità. E poi, arrivando ai giorni nostri, cioè nelle ultime puntate. Sì, l'ultimo giorno, l'ultima volta abbiamo fatto l'Energy Saver, anche questo, poi ho ricevuto mail da amici in giro per l'Italia che stanno cominciando a fare questa attività, sono in pochi, ma ci sono, è proprio ha dato una bellissima definizione, cioè proprio vanno a scavare nell'immondizia dell'energia, cioè noi buttiamo via un sacco di energia. E lui dice, io vado a scavare come se fosse l'immondizia delle aziende, delle case, e ne prendo un pezzettino e lo restituisco alla persona che la sta buttando via, non si è accorto che lì c'è della preziosa energia. Questo è quello su cui io scommetterei se dovessi puntare dei soldi tra il lavoro. Sì. Beh, poi magari mi sbaglio, però mi piace molto. Sì. Massimo, che dire? Grazie a voi. Tanti auguri per lo spazio e viva il futuro. Viva il futuro. E poi ci risentiamo naturalmente nel 2015 con altre idee e per seguire un po' questo futuro. Se abbiamo dei dubbi possiamo chiamarti anche in diretta. Esattamente. Cioè ti svegli di solito sabato e la domenica? Ti troviamo? Dopo le 9 sì, però va bene. Potrei essere con in braccio dei bambini o a fare cose, però vi rispondo volentieri. Perfetto, perché noi di dubbi sul futuro ne abbiamo tantissimi, e poi e sulla tecnologia qualcuno di più, direi. Quindi sì, molto sono volentieri. Sono sempre con voi. Ci mancherai tantissimo. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, intanto buon sabato. Massimo Temporelli. Mi piace moltissimo questa cosa, perché sogniamo di trovare un lavoro anche adatto a me per il futuro, e quindi pian piano che andava avanti speravo che a un certo punto non arrivasse qualcuno dove ci volesse un po' meno preparazione, diciamo, scientifica e tecnologica. Vabbè, però insomma il generalista è quello che più ti sia forse Massimo. Leggo un sms dice: ragazzi, io anni fa decisi di regalare cipolline in agrodolce fatte in casa, peccato che portata la missione a compimento mi abbiano ricoverato per un'intossicazione da inalazione di aceto. Volevo dire chissà che si possono fare regali fatti in casa, ma se uno non è in grado di farli, attenzione, tipo uno come me, forse è meglio che non si metta a fare troppe cose da solo. Ma sono avute notizie di chi ha ricevuto le cipolline, per esempio, perché chissà come è andata a finire. Però vabbè. Eloisa dice che da adesso i pensierini li faccio dal cinese, almeno si intossicano gli altri, quindi con una chiusa un po' così. Ah, vabbè, un po' polemica. Esatto, non ho capito esattamente. Ancora un po' di tempo per avere i vostri suggerimenti sui regali originali, intelligenti, economici, a base di riciclo. 800 24 00 24. Tra poco, dopo il traffico. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. E allora abbiamo un ascoltatore, Franco da Ravenna, in un minuto, perché poi dobbiamo parlare con una donna che ci deve dare dei consigli, ci deve aiutare ad affrontare in maniera serena il Natale. Franco? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La mia proposta è questa qui. Io, siccome quando nelle autovetture i portapacchi, uno trasporta dei materiali sul portapacchi, chiaramente deve legarli con delle corde, chiaramente. Allora a quel punto io mi sono recato presso un centro dove vengono sostituiti i pneumatici degli autocarri, degli autoarticolati, quindi grossi pneumatici. Questi pneumatici non sono tubeless, però hanno la camera d'aria interna. E quando i pneumatici sono usurati, loro non recuperano la camera d'aria, chiaramente sostituiscono anche la camera d'aria. Quindi la vecchia camera d'aria me la sono portata a casa, l'ho lavata bene con la gomma, con una spazzola, con i guanti di gomma, perché sporcano molto le mie mani. E poi con le forbici da lamiera, da carpentiere, tagliando lungo la circonferenza, ha creato degli anelli continui, tagliando la circonferenza, ho creato come dei massi elastici larghi circa due dita, che sono ottimi da intrecciandoli. Sì. Alla fine, intrecciando, uno fa una catena e poi può legarsi sul portapacchi, sono resistenti. Veniva da ridere per la perizia con la quale lei ci stava raccontando prima di spiegarci che cos'era la tecnica con cui ha realizzato. Cioè viene, è dei un lacci. copri portapacchi? No, dei lacci per ho capito. Per stringere quelli con i ganci, quelli con i due ganci in fondo. Ecco, però bisogna, Franco, bisogna saperci fare con le forbici della lamiera. Cioè, non è una cosa da tutti, Comunque, complimenti. Scusi, ma le forbici della lamiera tagliano il metallo, quindi la gomma. Sì. Io non è che creo un elastico. No, sa perché Franco, intanto la ringraziamo, scusi se la seguo così, perché abbiamo un altro ospite, dobbiamo sentirlo. Sa perché dico ci vuole perizia? Perché se poi uno non fa un buon lavoro, dopo ti parte il pacco mentre stai andando in macchina sul paese. Quindi è una situazione pericolosa di per sé. Non so se è tanto da regalo, magari da autoproduzione. Va bene. Io non regalerò questa cosa perché non riuscirò a costruirla. Ma perché però non saprei farlo? Perché lui è bravissimo, dice le forbici da lamiera, io non saprei neanche dove trovarle. Adesso la nostra psicoterapeuta che ci dà un po' di consigli per come affrontare in modo sereno il Natale, vai! I consigli dei politologi, liste di attese infinite dagli urologi, la voce del presidente alla radio e questa crisi che crea panico da stadio. Anche le madri sono molto preoccupate, usano internet per essere aggiornate, e anche l'Italia non è più quella di una volta, quando Mina cantava tu le mille bolle blu. Che stress. Paolo Simoni. A me piace molto questa canzone, andiamo veloci ma è molto carina. Che stress. Paola Vinciguerra, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente buongiorno dell'Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico e direttore della clinica dello stress di Roma. Addirittura parliamo di stress a proposito del Natale. Beh, in effetti, che dice? Ma il Natale sicuramente è una dimensione emozionale molto importante e proprio per questo ci carica di stress, anche perché ci carica di aspettative che spessissimo invece vengono deluse. Quindi è importante vivere un Natale dando dei ritmi, specialmente in virtù di questa difficoltà economica che tutti stiamo vivendo, più basati a una ricerca di scambio emozionale che a una ricerca materiale. Quindi non diamo per scontato che sarà bello, perché dobbiamo costruirlo in maniera positiva. E quindi bisogna in qualche modo un po' prepararsi. Noi ci abbiamo provato chiedendo suggerimenti agli ascoltatori per dei regali originali. Qualcuno ci ha suggerito cose che bisogna organizzarsi per tempo, tipo i peperoni in barattolo. Adesso poi dobbiamo autoprodotti, adesso poi dobbiamo anche assegnare il premio. Questo è un buon modo per affrontare con calma, per esempio, i regali di Natale. Qualche altro suggerimento che ci vuol dare? Sicuramente il vostro ascoltatore ha dato un'indicazione molto adeguata, per esempio quella di riunirsi con delle amiche e preparare dei dolci che poi verranno confezionati, oltre che quindi provvedere ad un regalo che non sarà costosissimo. In più crea uno scambio nel momento che viene prodotto e uno scambio con la persona alla quale viene donato. Molto spesso si tende a fare ai figli delle cose materiali anche di grosso valore, dimenticandoci che per i figli talvolta è più importante condividere un'emozione, un momento, fare con loro le cose che piacciono a loro. Quindi cerchiamo di cogliere una parte emotiva nel nostro scambio, una foto, un momento che abbiamo condiviso. Cerchiamo di sentire. Nel sentire di solito c'è sempre meno stress che nel correre per apparire. Io ho seguito attentamente quello che ha detto la dottoressa Vinci Guerra e stavo cercando mentalmente di capire se sto facendo questo oppure no. Credo che anche gli ascoltatori avranno avuto la stessa reazione. Ognuno ci pensi. Grazie intanto a lei, a Paola Vinci Guerra, psicoterapeuta, per essere stata con noi nel poco tempo che le abbiamo potuto dedicare, però insomma ci ha dato una mano. Esatto, un sacco di consigli buoni. Dobbiamo chiudere. Io direi che a questo punto, a giudizio insindacabile della redazione, i peperoncini in barattolo autoprodotti di Paola da Pescara vincono. Sì, signori. Sì signori, vincono il catalogo e i biglietti per la mostra di Chagall. Chagall. Noi ringraziamo Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Giorgio De Luca, fin quando ancora sarà con noi, ma no, nel senso come collaboratore di questo programma, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani naturalmente. Ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizio. Ciao. Sì.